Adesso si aspetta questa invece. Sì, ma quella, come detto io, il campo verrà la facile. CQ canale 10. CQ canale 10. Facendo male, c'è tutto messo male. Beh, Valerione, in che QRM che c'è oggi, allucinante. E avere QRM io è difficile, capito? C'ho QRM a Santiago 5, 6, quindi immagino tu. Infatti ho cambiato radio, perché un sacco di QRM, c'è vento, chissà. Magari anche qualche temporale in arrivo, non so. C'è questo vento, non so se è il greco maestro, non so. Lo sto prendo sia di fianco che dritto. Potrebbe essere un greco maestro. È anche abbastanza atteso qua, nella zona alta, Capito? E quindi, sai, bisogna vedere nell'arco della serata com'è la situazione. Io ce l'ho al greco maestro, greccare e maestrare un po' c'è anche, che ce l'ho teso da una parte, l'ho visto, però ce l'ho anche da nord, mi sta arrivando. Io adesso è finita, per me è finita la stagione dal 20 settembre. Il 20 settembre è finita la stagione, io adesso faccio radio normale, dalle 7 alle 13.25, quindi alle 2 sono a casa tutti i giorni. E infatti sono riposato, pranzato, mi sono andato poco fa, adesso pian pianino riprendiamo il routine quotidiano, come sempre, riposino un po' pranzo, poi un po' di radio e via. E la sera vola. Il Marco, se vuole, già può aumentare, già c'è la linea retta, quindi non ti preoccupare, se non lo senti già le facciamo agganciare il linearettino che c'è, una cinquantina di watt, già lo senti. Va bene Valerio, dai, fai pure, già sono qua in ascolto io, non c'è problema. Ciao Valerio, a dopo. Ciao Gianni. Beato me. Se partendo, è troppo? Ho riparato questo S9. Sì, voglio appuntire adesso. Troppo ripetitivo. Sì, vabbè, lo so. Che è molto bella. Il microfono normale. Aspetta. c'è il programma dovetto, ecco, adesso lo sono a casa. Guarda un po'. Ma che radio è? Ah? Di chi è? Che radio è? Non me la frega di chi è? Ah, l'S9, il bagno, quello americano. Già ho già capito chi è. Va bene, no, mi piace la conversazione, Antonio, è stridula, brutta, compressa, non so, vabbè. Ok, ciao già, buonasera. Ciao Claude, oggi non mi dà sicuri ufficialmente da lui studia, però tu, devo fare un po' di roba, ma non aiutare, sono stanco. Poi siccome devo lavorare anche domenica, quindi mi devo rifiutare. No, io lavoro domani, domenica niente, domenica sono a riposo, KK, ok, nulla, va bene. Non si è sentito nessuno? No, io ci sono adesso, sopra. Ho acceso 5 secoli, 70 l'ho fischiato, e allora ho risposto. No, io ero qua, però ho chiamato, volevo fare, non mi ha risposto nessuno, allora sono rimasto in ascolto. Valerio, stava facendo cose, si farà sentire dopo. Sì, vabbè. Magari va a pigliare, sta ancora dormendo. Nel contempo che sarei ci di buco, va. State la rimpiangere. Con la radio, è la denuncia a Orgogesi, a Pipistrello. Oh, voce va, te l'ho detto. Sempre bucata, dormito, eh. Allora, mi piace ozia. Io sono entrato alle 2 a casa e niente, anch'io mi sono sbagliato un po', infatti sono già in pigiama, non devo andare da nessuna parte, ero un po' qua in radio ascoltando in HF, pure al telefono con un amico e niente, spento il computer, spento tutto e buh. E cosa l'hai fatto Antonelli tra S9? Mamma mia, che radio, allora è difettosa il display. No, è roba di display. C'è stato un transistor che alimenta smitter, display e cose, quindi funzionava solo e in transistor non ci va per niente. È una specie di stabilizzatore di tensione, e in questo 12 uscita 8, se non c'era gli 8 volt non quella da arrivare. E sono uscita a trovarlo da Fusara, Stolino non ne ha. Monta un BB 238 mi pare che era. Non ha tanto meno ieri, ma dopo che ha controllato il corrispondente, se riuscite a trovarlo, dove piantato se ci sono subito. Ecco, vabbè, se va bene, lascialo così, avanti break. Ciao Claudio, buonasera a tutti, mi dai un controllo? 9:10 radio 5. Poi è quella là, l'ho lanciata adesso. Quella è appena appena di lecca, no? Appena appena. Guarda un po'. Parla. Vedi un po', 1, 2, 3, prova. Lascialo così, che amplifica la modulazione, è molto più bella. Vai già. Ciao Massimiliano. Vedi, allora, così deve essere l'ecco, no? Ripetitivo, oppure tipo verme. Così è bella la radio, liscia e con effetto ecco, ma appena appena. Sì, vabbè, quello sa tutto ecco, ma non è un S9, quindi è una cosa diversa. Se vuole la radio così bisogna che attacco il codice 4000 e c'è la radio precisa identica al codice, perché è uguale identico come circuito. L'unica cosa che manca è il frequenzimetro al codice 4000 che ci voglio. A me non mi piace la modulazione, anche un altro dico, sai, io sono schietto. Bruttina. La Massimiliano è molto bella. Bella, ordinata, pulita. E beh, Massimiliano, tutto a posto. Ho voluto così attaccare prima di andare a farmi la doccetta. Magari se andava tutto bene, là. Comunque, ho un Antonello, ma non è un Saturno con questo. Sì, la modulazione mi sembra tanto secco, solo per quello che ho detto. Va. Aspetta che mi sembra così, ho riputato un pezzo di nuovo. Ehi, eccolo qua, quello della mano qua, ragazzi. Come un bilumbiazzo. Va bene che va bene. Va bene, vai. Riprendi Gianni, io vado a farmi la doccia. doccia, ci sentiamo dopo, lascio acceso così riscaldo un pochino. Ehi, a massimo via, dai, buona doccia. Cavagala, avanti, ciao. Ciao, massimo via, ci sentiamo dopo, dai. Io sono qua, fino alle 7:30. Se c'era un vento, quello fa, sembra che stia mollando un pochino. Guarda che c'è qualcuno che sta chiamando in propagazione. Ciao, ma se mi se ne intende in dubbio, non intendo. Chi è che vuole entrare? Io non sento niente. Tu già senti qualcosa? Adesso no, ma poco fa l'ho sentito anch'io. Ha fatto il 5 canale 10. Adesso. Attenzione sul canale 10, chi vuole entrare, avanti. Ehi, c'è dove sei andata, vai, è troppo pagata dai passaggi. Lo senti 2 minuti e poi scompare. Andare, andare. Meno. Anche l'altro giorno c'è, l'hai visto? L'altro giorno già c'era quello, come si chiamava, Maria che stava parlando da Sassari, di quanto stava arrivando forte. Ma ha durato poco, poi è sparito. Sì, arrivava forte anche a me, 9:10 mi arrivava a me. E forte era, forte, forte. Ma anche come radio era forte, capito? Avanti Antonio. E avevo un sacco di me. Sì, sì, quello del Saturnecco, stavamo parlando tutti e tre con Saturnecco. Adesso li sento, stavo parlando tra di loro. Sembrano camionisti, non so. Città di Venezia, ciao bravo. Ma io vado a QRM a Venezia, però. Oggi per la prima volta c'ho QRM a Santiago 7. Ma di un po' balosa. Deve essere qualcosa in arrivo. E beh, fra niente è fatto. Si abbassano le tensioni, Gianni, non è niente. Con l'avere del tempo, voglio rifatto le tensioni, cambiato qualche condensatore, la radio a posto. L'ho revisionata la mia 2 anni fa, io ed è perfetta. È come il giorno che l'ho comprata. Vabbè, 140, tutti quelli che ho avuto non me l'ho lasciato lì, la verità. Vabbè, ha avuto un problemino, poi si è messo a posto. Io beh, diciamo 140 è un baracchino sintonia continua, una 440 è già un apparato a pezzi. E così, 440 è molto completo, molto più complicato, molto più, capito, bisogna farle un po' più di manutenzione, ma comunque il difetto del 440, chiamiamolo difetto, è che si abbassano le tensioni e quindi il dispiego rimane a zero, capito? Usura è quella lì, sono radio vecchie, c'è poco da fare. Anche le macchine si sfasciano, anche noi ci usuriamo, figurati. Io gioco con lo sciampetti, fate un conto, un sciampetti, tutte le ossa le fanno male. Così è, purtroppo, queste gai. Quando io arrivo da lavoro, arrivo a casa, parcheggio la macchina, quando vado a scendere, il cattolo vicino ce l'è presente. Non riesco manco a camminare dai dolori che ho. Però purtroppo devo andare avanti. Già, la vecchiaia è carogna. Guarda che c'è la crema lì, dove, quella per i dolori, l'ho provata io, la poppa. E cosa c'è? Non ho capito. La crema per i dolori, 100 mg solo. È una poppa quella crema, se vuoi ti dico che come si chiama te la prendi, costa 4 euro. Ah, vero? E come si chiama? Adesso te lo dico, aspetta un attimo che la prendi. Sì, ma dovrei lavarmi tutto il corpo. Per me ci vogliono in più, c'è poco da fare, perché tutte le giunture delle ossa mi fanno male. Le giunture delle ossa ti fanno male? Sì. E che cos'è? No, non lo sai che cos'è. E le reumatismi sono, Claudio, cosa può essere? Martismi sono, a furia di tirare pesi, questo e quell'altro. Lui ha... ammortizzata fluido termico 100 mg si mettono dove c'è il dolore, dopo un po' senti appena appena il calore interno e ti sparisce il dolore del tutto. Ma è una cosa momentanea, Antonio, tu dici no, io lo zap il volta lei non le faceva nulla, non me lo questo qua che è passato per 4-5 giorni e buona sapersi. Se in capitoria la dito lo prendo, la provo, là. Perché anche questa di muscolatura, lo so, le ossa, sono tendini e cose varie. A cui devi mettere la roba sopra, quando metto le casse dell'acqua in alto, che mi do voltaggio per mettere su una sull'altra. Dopo gli strappi fa... Prova la comunque che buona, l'ho provata io, è una bomba. Aspetta che attacco adesso, ho lavorato qualche chino, faccio la prova, se funziona ancora. Ehi, fago, sì, Antonio, buca, tiro, c'ho il tuo magno, faccio difficoltà, ascoltate, chi è che vuole entrare? C'era un portante sotto di te, già non ho capito chi è. E allora, avrà, se già mi racconti. E anche io stesso, sono uscito alle 6, sono entrato alle 2. Le due a casa, due qualcosa, transato, una pennichella, e poi mi sono bugiato di no, che tanto cosa fai? Leggermente saturina, ma abbastanza comprensibile, fra. Perfetta, sei più di 9. Più di 9. Così sì, tra il 7 e l'8. Così più di 9. Se ho uno di quelli piccoli veicolari, quindi 7%. Funziona, vuol dire funziona, vero già. Gianni. Se deve essere un altro, se deve. Dove ce l'hai attaccato? Quello ce l'ho nell'altro armadio, nel Connex. No, già funziona bene anche l'Echo Master Plus, vabbè. Siamo, lei ha un bel microfono, un leggero eco, e già va bene, è quello là che ti ho dato io, e io dove tu? No, il 300 sto dicendo. Ah, il 300, quello sì, quello che avevo preso da te. Ah, quello là c'è la competizione, te l'ho detto. Non ho capito. Da dentro, manca un... Ah, quello è il 300. E cosa manca? Un regolatore di... Adesso non mi ricordo se quello del Lecco o quello dell'amplificazione. Da dentro proprio? Sì. Yes. Tu immagini che non so come ti ha fatto dentro, io l'avevo bruciato. Manca. La funziona bene, però manca. E quello lì ne ha due, perché due regolatori. Uno per lei e uno per la pianificazione. Figlio di Dio, non so come ti ha fatto, io dici. L'avevo prestato. Era rientrato fortunatamente, l'avevo provato e andava bene, però io non l'ho mai aperto dentro. Io gli avevo dato la batteria, ma tu la dura batteria. Infatti c'è quella ancora. Ma io ho tolto per vedere il tipo della batteria, cose così, l'ho tolto. Ho tolto il coperchio e si è visto quello lì. Ma funziona? Funziona bene? Avevamo fatto la prova. Sì, funziona bene. No, dimmi tu che se vuoi. Ma ne ha bucato e già finisci via. Sarà un po' più chiaro, diciamo, da... lo vedi come esce? Mi sono cominciato a rompere le palle, se no me ne sto andando. No, già, devi leggermente abbassare il Mickey Game col pomellino nero, no? Non quello grigio, la potenza, quello nero, abbassalo appena appena. Ecco, lasciala stare così, il processore inserito ce l'hai. Sì, dopo quello del lock c'è il broche, quello lasciano inserito e il Mickey Game tienilo così, non gridare. Capite, se no strappi. Ma ci sono io, Franco Rissorso, Antonello, sentito Marco, Gianni al telefono. Ok, vai per chi vuoi. Buonasera, chiede il dottore. Ecco. Buonasera a tutti, Marco, sì, ero un attimo in ascolto. Ciao Capri2, mi ha fatto piacere di sentirti dopo tanto. Ciao Claudio, Franco e Antonello. Antonello, ogni tanto leggi i messaggi di WhatsApp, eh? No, stavo aspettando di prendesse qualcuno. Vai Claudio. Ok, ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Oh Gianni, ma stai usando il microfono normale? No. Capri. Claudio. Già, ma l'MC50 è un microfono normale da tavolo, ce l'ho anche io. Capito? Non è amplificato, devi comprarti un 60 per quella radio. Oh Claudio. Io te lo posso procurare, non ce n'è problema. Per me anche adesso te lo procuro. Chiamo e me lo faccio portare, non è quello il problema. No, non è lei, non è feo. Questo l'ho usato pochissimo ed è nuovo nuovo, capito? Però te l'ho detto quanto vuole. E l'ultima volta mi ha sparato 90 euro, se riesco a tirarglielo 80. Claudio! Scusate, Marco Condor, mi squilla il telefono, non mi istante. Un attimo, Claudio! Claudio, mi sento. Aspetta, un secondo, dimmi Franco. Ciao, dai, devo lasciare che devo uscire, un attimino. Dai, tienimi aggiornato se hai bisogno di qualcosa, ci sentiamo. Gianni Operumi, ci sei? No, Gianni Operumi al telefono, Marco al telefono, Antonello, potete parire su. Sì, ho già, non ne ho problemi io, se vuoi le dico di portarmelo, ti chiamo, passi e te lo prendi. Ce l'ho io l'MC50 che è della linea 780, capito? È un microfono normale quello, non ne ha preamplificazione. Non ne ha preamplificazione già. Vabbè, le dico di portarlo, poi domani ti chiamo qua se te lo prendi, capito? Nuovo è, nuovo, me l'aveva prestato a me anche, capito? È nuovo, nuovo, l'ho usato pochissimo, c'è il cavo spiralato, nuovo, nuovo. Il microfono è in ottime condizioni, è nuovo già. Vai tranquillo, già lo sai, se te lo procuro io, te l'ho detto, non ne compro io di mondezza, capito già? Sei 920 abbondante, sì. No, il microfono per quelle radio lì, l'MC60, già, no, c'è niente da fare. L'MC50 è un ottimo microfono, va molto bene in banda laterale, però in AM, se non hai in MC60 non spinge la radio, capito? E cosa ne fai del connettore A5 con quel microfono? Quello ti conviene mettere il connettore per il keyboard e lo usi con il keyboard come microfono normale. Ah, ho capito, e quello già lo trovi da Fusaro, vai da Fusaro che già ce li ha, quindi. Dipende, c'è chi lo dà a prezzo pieno, c'è chi per disfarsene lo regala. Tu hai avuto fortuna a prenderlo a quel prezzo, già va bene. L'hai comprato a livello di un 140, quindi va benissimo, le 440, oggi meno di 400 euro non lo trovi. Va bene, va bene. Ehi, ci hanno frugato, basta mettersi in tasca le mani e lasciare stare le cose quando non sono buone a farle. Vediamo chi c'è rimasto in questo canale. Non c'è rimasto nessuno. Aspetta un secondo già, un minuto solo che arrivo subito. Va bene che va bene, dai. Ok. No, invece di cancia il microfono qua, ma non capisco perché fa così. Cosa già? Non ho capito. Difficile. Scusa già, che mi è mancata la luce. Cosa sta dicendo? Oramai gli ho detto a domani sera già. Ma non so se è fattibile. Adesso provo a chiamare, magari se ce la fa verso le 8. Capito? Va bene, dai, aspetta un attimo. No, già, domani sera dopo le 5. Attenzione, capo in 2, si ascolti doppio lungo che ti super cordializza. Ehi, a Santiago 7, sì, che cosa ti ha fatto? Ormai la minuti. Ah, e di Atena cosa c'hai? C'è per la solita o un'altra? Mi dispiace, dai, sono gli altri, io lo saputo ieri, ma l'ha detto Claudio, dico la verità, non sapevo niente. E adesso Ottavio con chi sta? Ehi, ma adesso sei attaccato. E infatti. Ehi, non li fai più dormire che avevo detto con te. E ce l'ho anche io. Guardia. I caricosi si ha preso. Ehi, ciao ciao, capitura, avanti che è rimasto. Ciao già, dai, ci aggiorniamo domani allora, ok? Domani chiamami verso le 5 e te lo faccio avere, va bene? Ciao, ciao, ciao. Beh, Gianni. Visto, ha fatto tornare sempre da vacca Gianni. Te l'ho detto, l'aveva già comprata la radio, doveva solo sistemare l'antenna e basta, lo sapevo già. Adesso gli ho procurato un 60, domani passa se lo prende e così c'ha tutto a posto, capito? Ia. Però la radio non mi piace molto, non la sento limpida io Claudio, lo sai, la radio di Gianni, mi sembrava che fosse attaccato, o era troppo forte come radio. No, c'è il microfono normale già, capito, poi se lo attacca la bocca è satura, magari la potenza è alta, non lo so, poi adesso quando mette il microfono a tavolo si regola meglio, dai. Ok, avanti Massimiliano. Va bene, va bene. Gianni, il segnale com'è lì da te? Aspetta che metto gli occhiali, Massimiliano. Una curiosità, va. Prova. Guarda magari questo passaggio così. È 9,25. Così invece? Più di 9,30. Ah, va bene, ti affunghia. KK, positivo, dai dai. Alla basso un po' il tempo. Così, bene va. Un attimo, sono al cielo. Sono al cielo. Ok, va. Claudio. Eia. Sì, va. Va bene. Ça va bien, ça va très bien. Sì, ça va bien, ça va tutto. Sono arrivato una scelta, grazie. Facciamo voi i connettori dell'alimentazione. Spagnolo, ha detto no, torra, sto parlando, spagnolo, sono andato dietro completamente, può essere che li ho infilati per provare e non l'ha già avvitati, che sorella c'hai, ci sciuga, ha detto torra, no, non è possibile, la sai che è arrivato dalla riparazione, c'è appena. Una bella ricezione, sì. Prendo compro scambio. Uno scambio è un cazzo. No, ti muoio in mano, con l'idea, baita. Questo adesso rimane qua, lo uso, li alterno, un po' uno, un po' l'altro. Capito? Non uso, come ti metto a capo, ma adesso vediamo. Se uno mette matto a capo, me lo leggo, 4,30, me lo vendo 4,40. Va bene. Intanto, alla fine. Sì, alla fine, si deve vedere via. Io, beh, non tengo uno, non vediamo. Non lo so. Sarà che non sei, ci vuole, non so. Era in culo, è vero che va a chi non si non ti preoccupare, a me. Vabbè, che sono a chi non si No. Yeah. posizione, 45. Davvero? E da Roma? Sì, da tre parti, Verona, Roma, Taranto, da Ciro. Hai fatto 10? No, no, negativo, ho acceso lo spento. No, io non sono manco andato, la verità. Ieri ce n'era anche qua, propagazione. Claudio, quella cosa me l'hai trovata? La mia, va, sei tutto in burichieti. Su burichieti, stavo cercando l'altro microfono per quello normale del 780. Dimmi, cosa hai detto? Se mi hai trovato quella cosa. Se mi hai trovato quella cosa? Sì, dentro quei due sportelli. No, ma se via, nulla, Nadio ti farà tutto. Quello te lo faccio domenica mattina che sono a casa, o domani, tanto domani mattina lavoro, magari quando rientro così domenica mattina te la do, capito? Non ho fatto nulla, ma se via, che la verità mi gioco, mi sono addormentato dopo pranzo. No, va bene, devo che te l'avevi cercato, va bene, avanti già. Ma io per un po' di tempo che non accendevo Massimiliano, tutta l'estate praticamente, non ho manco acceso per sbaglio l'apparato, perché non mi dava il cuore, troppo caldo, quando uscivo, pure sai, l'estate tedesca, poi gira il ghiero, vai qua, vai là, e non hai gara. Ma poi sono stato, diciamo, una bella, è stata una bella estate, lo stesso, ma poi di inverno ho cercato a Maieci. Ti sdrai, ti copri con una coperta e ti piedi pure un favita. Ma io non è che sono entrato molto, la verità, ogni tanto mi aiuto, ciao, tocca e fuggi. Capito, anche io ero un periodo che non posso. Mi sta passando la passione della palanca. Tu mi sa che mi servono tutti quelli modificati, perché mi serve me? Ma ti faccio truppi già, lo venivo. Ma quello lì, quello che mi ha fatto bere è un bel prezzo. Cosa ti è venuto? Il brutto? No, brutto ho venduto. Tutto l'ho venduto. E sto vendendo l'S9 e tornavo. Ah, l'S9, scusa, il 3009. Ah. E adesso lo vado bene. E ti rimane a te modificato nulla? Non c'ho l'S9. Ah, c'è l'S9, va bene. Ciao, andate. L'S9 per me è un po' peccato toccarlo, perché già è un apparato che esce bene così. Sì, vabbè, ormai questo ce l'ho qualche anno e me lo tengo, capisco, quello me lo tengo, non lo do. Se riesco do un tornado, 3000 a casa, 3009, mi dispiace anche, perché è lungo, lungo, lungo, lungo. Non c'è un grafico. Lo so io, ce l'ho, se no, ma poi ho tante le spese qui. Ho fatto una pazzia, Massimiliano. Una pazzia? Mi sono fatto un tatuaggio, un tatuaggio? E dove? Nella palla? No, nel braccio, nell'avambraccio. Sì, non è una pazzia, se ti piace. Mi piace, mi ho tatuato il mio cane, col nome so. Sì. E bello, mi scelto un capolavoro, bravissimi quelli di Gargero, so. Che pagata. Anch'io già me lo vorrei fare, però sto per dire lui. Oh, fa un bel insulto, questi tatuaggi di cazzo. Quando ce l'ho io ne hanno fatto altri due, tatuaggi, perché sono in quattro, uno è tra i piercing e gli altri tre fanno i tatuaggi. E uno è specializzato nelle scritte, praticamente fa la scritta a mano, cazzo, ma scritte però, con una caricatura con l'ortografia è allucinante. Passano con terreno là. Però fanno i soldi a palazzo, cazzo, guadagnano bene, guadagnano un sacco di soldi. Il loro lavoro è quello. Va bene, io devo passare dal cinese a cambiarmi una cosettina, se ho comprato e non va bene ancora, no? E allora me la devo scrivere. Faccio salire a casa a prendere mia moglie e mia figlia. la cambia e poi vado da loro. Riprendi, capo di buglia. Ehi, ehi, ehi. Sempre in viaggio, sì. Certo, ma quante volte la fai, sai, carino? Quante volte la fai. Le volte che serve, bisogna farla. Già lo sai. Quindi, secondo me, bisogna andare su. Bisogna fare il dovere, capito? Sì, ehi, vabbè. Ascolta, non mi hai detto niente, la modulazione com'è, buona? Sta cagata, che lo già. Va bene, va. Tu lo sai che quando trovo qualcosa di anomalo, ma io sono fatto così, capito? Ma non solo a te, a tutti. Quando non mi piace, la radio mi piace. Lo stesso, quella di Capri non era perfetta, perfetta. Mi sto ascoltando mentre mi stavo mettendo. Si può migliorare, da, si può migliorare, magari deve voler fare ancora qualche altra regolazione, capito? No, no, va bene, la tua è perfetta. La mia è sempre quella di sempre, è così. Scappa già. Mi vede anche Massimiliano la nocca, perché io Massimiliano gliel'ho detto, che non era perfetta, perfetta. Sì, ma magari già, magari stava usando il micchiamanetto, magari basta che la passa un altro pedino, esce meglio, capito? Tanto è inutile avere questa radio sparata e poi esce male. Sì, ma infatti sono da regolare sicuramente, però non era limpida. Infatti ti ho chiesto se era attaccato, se era qualche cosa, sembra passato, là. Bravissimo, era un po' così, là. No, la tua va bene, Claudio, perché volentieri è sempre lo solito. Non beh, non tocco niente, io solo ho cambiato radio, già lo so che la sto usando, quindi no. Bisogna essere discorsi alla... No, ma cioè cercate di capire, uno prende una radio del genere così, magari non la conosce, non è un 140, capito? Un 440 già. E usandola col microfono normale, basta che ti avvicini, strappa, fa, ho fatto delle regolazioni particolari, infatti mi ha detto di darle, di procurarle un MC60, domani viene, se lo prende. E vedrai che cambia la minestra. Perché secondo me sono così ci fa anche bene il microfono, però non era, mentre stava chiacchierando non era lì da andare, tutto qua. Va bene, dai, signori, io vi lascio e ci sentiamo domani se coincide, e domani vi do con la passata del motosegno. Andate, buona serata, buon tutto, ciao Gianni, ciao Claudio e che fosse in ascolto, va. Ci sentiamo. Ciao, ciao Massimiliano, buona serata, ci sentiamo. Ma che altro non ne hai? Gappa gappa. Perché su poco che stai venendo vicino a casa. Che cosa? Volete in macchina non è apparata, se no ci saremmo sentiti. No, no, no, già, già. Ho cambiato anche macchina e non... in macchina non è poco più. No, no. Niente. Che macchina ti ha preso adesso, Massimiliano? Per me andiamo a lavorare, un rigore. Mi ha preso. Piccolina, tanto. Vabbè. Tu dico quello che fa una parlata, non è che sia un problema questo. Ma io non è ancora cambiato, io cambio la cinghia di distribuzione e basta tutto lì. Però la cotta era nuova, nuova, nuova, ce lo sapevo che non avrei cambiato. E ha fatto i suoi chilometri, ha fatto 120.000, sempre davvero una speculatura ci ha messo. Vabbè, io la grande ce l'ho sempre, io la bianca. Io prima delle ferie di agosto ho fatto cinque distribuzioni, ammortizzatori, dischi, pastiglie, un poco di cose, ma l'ho rimessa un po' in ordine, che era tutta un po' malmessa. Va bene, dai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo, riprendi qua, non riprendo più, ciao. Ciao Massimilia, alle prossime, dai, ci ascoltiamo, ci aggiorniamo, dai. Ascoltare già ci ascoltiamo. Lavorando con la regolazione, sì. Dovrebbe essere a posto, da due, ma che già va bene. Ok, ciao, alla prossima. Ciao, io ti lascio perché mi preparo e vado a portare il cane, dai. Se ci sei a dopo, altrimenti alla prossima. Ok. Sì, ecco, vai, vai, perché io mi devo preparare. Mi devo fare almeno la barba, non ho voglia di fare un capo, perché sono stanco, ma almeno la barba non la faccio, vai. Dai, mi preparo e poi scendo anche io. Dai, insomma, con la mia vista che mi sto alzando, già si è bizzardo. Vado là, ci sentiamo, che adesso fa? Le 8 meno 20 sono quasi. Niente, no, dai, sì, sì, me ne fisso. Ciao, Claudio, ciao, ci sentiamo dopo, non accendo che mi vuole il televisore. Ciao. Ciao, ci sentiamo allora, ciao ciao.